Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un figlio a cui lasciare tutto quello che si ha. La signora Assunta, 94 anni, non ha avuto dubbi e lo ha scritto nero su bianco nel testamento. Lascio tutto alla persona o all'ente che si occuperà del mio gatto. E Tommaso, di colpo, si è trovato con 10 milioni di euro. Sono arrivate a noi esecutori testamentari una miriade di mail di possibili candidati che volevano adottare il piccolo Tommasino. Qui entra in gioco Stefania, infermiera 48enne, che nell'ultimo periodo si è presa cura dell'anziana donna e da lei è stata indicata come la persona giusta. Non sapevo dietro la situazione della signora, che era una signora che comunque aveva dei soldi, aveva delle case, eccetera. Io l'ho saputo solo dopo. Se questo è stato il suo volere, che ben venga. Sono veramente contrito e affranto di dover nuovamente toccare le corde più sensibili del mio pubblico, ma ahimè la cronaca me lo impone. Giorni fa già parlai della terribile storia dei soprusi sessuali compiuti su dei cani costretti a prostituirsi con esseri umani, e già parlammo e sviscerammo quello che era un problema molto grosso, che sembrava impossibile andare oltre quella soglia. Ebbene, oggi siamo andati oltre. Avete sentito? L'introduzione era legata a una vicenda di cui già parlammo, il povero gatto Tommasino che non riusciva a trovare un padroncino che lo affigliolasse, lo adottasse, rendesse lui le cure e l'attenzione che meritava. Oggi vi parlerò di altri due gatti che subirono una sorte ben più triste del povero Tommasino, Tilly e Zaira. La vicenda la riprendo da Libero, il quotidiano Libero, nella cronaca puntuale, attenta e appassionata che ne fa Salvatore Garzillo, ma molti giornali ne parlano perché è una notizia che merita la massima attenzione. Tutto inizia da una sentenza del giudice Damiano Spera della decima sezione civile del Tribunale di Milano, un tribunale che si occupa di diffamazione, incidenti stradali, danni a persone e cose, che doveva decidere della vicenda tra due vicini di casa, tra madre e figlia, padrone di Tilly e Zaira, e il loro crudele vicino di casa, che un giorno, turbato dalle innocenti deiezioni, probabilmente i due vicini facevano come naturale nel suo giardino, ha preso un fucile ad aria compressa e ha fatto dei poveri mici bersaglio della sua perfidia. Tilly rimase gravemente ferita, mentre Zaira morì circa 6 mesi dopo. Dopo un lungo e costoso calvario dal veterinario, scrive il collega, infatti il conto finale del veterinario erano 12.000 euro che le due signore hanno ottenuto tramite un finanziamento. Quindi hanno chiesto un prestito, un finanziamento, per poter pagare 12.000 euro di veterinario per i poveri Tilly e Zaira. E Zaira, ahimè, non ha avuto nessuna possibilità. Ora, loro hanno fatto causa al vicino chiedendo 12.000 euro di risarcimento per i danni patrimoniali, più per i danni morali, crisi di ansia e di insonnia che hanno avuto per la perdita dei due gattini. Il magistrato in realtà ha fissato il risarcimento a 8.000 euro, per cui 4 sono per le cure mediche, che in realtà erano 12.000 euro, e 2 per i danni morali. Ha stabilito il magistrato che in realtà il gatto è privo di valore economico, pur riconoscendogli un danno morale, i 2.000 euro a testa, e che in realtà si va oltre i limiti di diligenza e correttezza spendendo 12.000 euro per curare due gattini impallinati da un vicino. Voi come la pensate? Siete la parte del padrone di Tilly e Zaira e dite che un gatto non ha prezzo, dovrebbe avere un gatto soltanto se con il pedigree, con i 4/4 nobiltà, ha un prezzo economico? O in realtà è lecita qualunque spesa, uno si può indebitare per curare il povero gattino impallinato? Come la pensate? Ditemelo, perché a me interessa molto il vostro parere. 800 24 0024. Cosa vuoi? Come? Non ho capito, amore. Cosa vuoi? Miagola bene. Non sei capace di miagolare bene, eh? Miagola bene. Di miau. Non così, non così, dillo meglio. Tommy, come dici ciao? Ciao, ciao. Cosa c'è? C'è da dire che il vicino di casa ha tentato anche di controdenunciare le due signore per mancata custodia dei due gatti che andavano nel suo giardino. Egli comunque agì con estrema precisione e perizia, li centrò per bene, come dice appunto Garzillo, a Tilli la sopravvissuta, il veterinario estrasse 3 pallini dall'addome, all'altra furono fatali 4 colpi al ventre, quindi 7 colpi di fucile aria compressa per far fuori i due gatti, e probabilmente dal suo punto di vista trovava odiosi perché entrarono nel suo giardino. Ma in realtà il punto, la sentenza è un'altra. Mentre, come ho già detto, il danno morale da perdita dell'animale d'affezione è riconosciuto, cioè tutta una giurisprudenza, se mi uccidi un animale, che per me è fondamentale, si è sentito questa seconda clip, addirittura una signora parla con il gatto, riesce a far esprimere il gatto in maniera quasi umana, quindi esiste un rapporto viscerale, non esiste più la differenza, il discrimine fra la specie umana e la specie felina, il gatto fa parte della famiglia, quindi è stato riconosciuto dalla giurisprudenza che è come se in parte ti uccidessi un membro della famiglia. Però è proprio sul valore in realtà e sulla liceità della spesa veterinaria per curare i gatti. Non viene riconosciuto all'animale in genere un valore di dignità e una forza di esistenza tale per cui i 12.000 euro in effetti per curare un gattino vengono considerati troppi e addirittura ci si debba indebitare. 800 24 00 24, vi prego, questa mattina fatemi sapere il vostro parere, visto che sui cani le signore sono molto astenute di esprimere un parere, almeno sui gatti ditemi la vostra. Paola, buongiorno. Buongiorno. Allora, posso esprimere la mia opinione? Non può, deve, sono qui apposta. Okay. Allora, al di là del fatto che io sono dell'idea che 12.000 euro effettivamente è una somma alta. Però divisa per due gatti, quindi sono 6.000 euro a gatto, non è che sì, poi... è tanto, sinceramente. Beh, però vorrei vedere, scusi, lei avesse il suo gattino impallinato, sì, che sta lì... Infatti, io condivido pienamente... Metta caso, cioè... il gattino, siccome... è consapevole della situazione economica dei padroni, certo. Era finitemi, non pensate a me, sì, non sì, voglio che vero. Vi indebitiate, invece loro sono andate in banca, è hanno vero, chiesto il vero, mutuo. Sì, l'amore non ha prezzo, effettivamente. Quindi 12.000 euro sono giusti per due gatti impallinati? Allora, sono tanti, però come ripeto, l'amore non ha prezzo, quindi capisco queste due signore che abbiano, cioè che hanno fatto una scelta di questo tipo. È giusto che siano risarcite, diciamo, nell'entità? Sì, allora sì, per il loro amore sì, devono essere risarcite. E quindi lei dice questa sentenza, in realtà dovrebbe tener conto che il fatto che l'amore non ha prezzo, qualunque spesa è giusta, sì, per un gatto, sì. Quando uno lo vede lì impallinato, che guarda con gli occhiucci e dice guarda cosa mi hanno fatto e tutto, a quel punto uno si indebita, si vende qualunque cosa. È molto chiaro, grazie. Laura, buongiorno. 800 24 00 24 è la mattina in cui potete esprimere sinceramente quello che pensate nei confronti dei nostri cari amici pelosi a quattro zampe. Laura. Sì, ciao, buongiorno. Io volevo dire, io ho un gatto praticamente, mi hanno già accusata di avere un amore patologico verso questo gatto. Ora, ma amore che sconfina, diciamo, in atteggiamenti che vanno oltre la liceità, oppure un amore semplicemente, sa, perché alla luce della trasmissione dell'altro giorno mi sento di fare questa domanda. L'amore, no, diciamo, è un amore che sconfina, nel senso che a volte lui dorme con me nel mio letto, cioè se lo porta a letto il gatto? Sì, dorme con me ai piedi del mio letto. Ma lei, sì. Adesso non entrare da solita privata, dorme sola normalmente oltre col gatto o altri ospiti? In questo momento sono sola, devo dire, e infatti mi accusano di, cioè il gatto ha sostituito, diciamo, riempie una lacuna, un horror vacui riempito dal gatto. Vabbè, se l'accontenta. Quindi lei no, però, per questo, no, metta per realtà, assurdo, questo gatto con cui lei divide le sue notti, venissi io lo impallinassi, lei quanto spenderebbe per salvare la vita a questo gatto? No, in realtà adesso io non potrei permettermi, infatti io non potrei, cioè non mi sarei potuta permettere 12.000 euro per salvare il mio gatto, sinceramente, proprio non ne avrei avuto, quindi avrei dovuto desistere. Le signore infatti nemmeno loro l'hanno chiesto in banca i soldi, hanno aperto un finanziamento per finanziarlo. No, io probabilmente non sarei arrivata a quello, anche perché ho una situazione particolare alle spalle in questo momento. Però devo dire che mi sono trovata, anche in questo momento, che purtroppo non ho delle entrate economiche, a diciamo ricavare dei soldi in altro modo per ad esempio far sterilizzare il mio gatto, perché avevo l'esigenza di farlo, perché altrimenti avrebbe diciamo lasciato qualche nidiata in giro di gatti che poi magari sarebbero stati abbandonati. Quindi ecco, per non usare anticoncezionali, quest'amore poi gli taglia le palle, mi scusi il termine, non mi sembra. No, ma è una regola igienica questa, perché tu non puoi lasciare un gatto da solo. Ma lei lo farebbe un suo fidanzato, scusi, come regola igienica. Ma no, vabbè, ma che c'entra? Cioè, se tu io adesso sono qui a Cecina, ma in realtà sono di Roma. Il gattile di Largo Argentina, che è una Onlus dove sono tutti volontari, lo danno proprio come regola quello di far sterilizzare i gatti, perché i gatti sono molto soggetti a malattie. Cioè, sterilizzare vuol dire castrare. Sì, castrare, esatto. Cioè, tagliano le palline al gatto. No, fanno, diciamo che bloccano i dotti. Quindi no, gliele schiacciano. Semplice tagliezza, è più invasivo quello per le femmine, chiaramente, no? Però è una regola igienica proprio per... E quanto costa questa operazione? Guardi, allora io ho trovato un veterinario a Monte Rotondo, in provincia di Roma, che ha dei prezzi molto buoni, e quindi ci sono adesso questi veterinari che abbassano le tariffe, perché siamo in un periodo in cui... Userà il martello e l'accetta se costa meno invece. No, in realtà ad esempio ho usato un anestetico molto basso, cioè delle regole anche importanti. C'è una martellata in testa. Vabbè, abbiamo capito, lei comunque per il suo gatto in cui divide il suo letto spenderebbe una cifra, ammesso che l'avesse. Massimo. Melog. Cronache meridiane. .800240024, prendiamo spunto dalla triste e cruenta vicenda di Tilly e Zaira presi a fucilate, ad aria compressa, però sono sempre palline che fanno male. A Zaira sono stati fatali, Tilly ha avuto una lunga e dolorosa degenza, costata complessivamente 12.000 euro alle loro proprietarie. Si sono anche indebitate per pagare questo debito, ma il giudice ha definito che al massimo potevano prendere 4.000 euro più altri 4.000 euro di danni morali. Leggo qualche telefonata, visto che ho chiesto agli ascoltori che ne pensassero di questo prezzo dell'amore che deve essere illimitato. Delitto perfetto, questo è terribile, un ascoltore mi scrive e suggerisce una turpe maniera per liberarsi dei gatti senza incorrere nel rigore della legge. Fionda e cubetto di ghiaccio, gatto morto, cubetto sciolto. Come si fa a pensare una cosa così atroce? Poi un altro: non si può monetizzare la vita nemmeno degli animali, giusto, il vicino di casa è un essere spregevole, da punire coi soldi e anche con la galera. Penso al vicino nel momento in cui ha impallinato i gatti, se le si è tolta una bella soddisfazione, ma dai, non si può. Prendere a calci nelle palle, a scarpate in faccia al vicino e cavargli gli occhi. Sono la parte dell'impallinatore. Beh, diciamo che è diviso a metà il pubblico fra chi sadicamente dice che bisognava infierire contro i gatti molesti, atteggiamento deprecabile, detestabile, antiquato, sa, di scellerati giochi di bambini in epoche in cui non c'era rispetto per gli animali, chi invece dice che propone pene, torture e ferrate per chi ha compiuto questo delitto. Sentiamo i nostri ascoltatori. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori in ascolto. Il suo punto di vista, sì, il suo punto di vista. Ma io ritengo che uno che compie un atto del genere di per sé dovrebbe andare in galera, certo. Perché se andiamo a risolvere il problema dell'insofferenza, del non accettare l'altro, il diverso, fosse anche un gatto, utilizzando fionde, fucili... Ma un gatto diverso in che senso? Che ha la coda e peloso rispetto no, a nessuno? Diverso, diverso dall'uomo, nel senso diverso da noi. Se non passa questo concetto, allora per dirimere diciamo le contrarietà si sparerebbe chiunque. Abbiamo anche le testate nucleari, insomma, andiamo ad eliminare l'altro. Quindi, ma io sono talmente d'accordo, anche diciamo i poveri topolini, le innocenti piattole, c'è sempre un uomo che vuole infierire contro degli esseri viventi, bene o male, per il suo benessere, per la sua cupidigia, per il suo egoismo. Ma in questo caso come la pensa nei confronti di questo episodio di cronaca specifico? Ma al di là che io ritengo che debba essere perpetrato il rispetto nei confronti di una qualsiasi forma vivente, se gli ordini professionali dei veterinari hanno applicato queste tariffe non è colpa di nessuno, il gatto andava comunque assolutamente operato, quindi 12.000 euro era la cifra che costava. La ringrazio. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono assolutamente d'accordo con le persone precedenti sul discorso di dover punire chi fa questi atti scellerati contro gli animali. Quale sarebbe la punizione che lei potrebbe suggerire, senza sfociare nel crudo sadismo? Cosa farebbe? No, avesse lei, diciamo, disponibilità? Una sanzione economica sicuramente, oltre a fare magari un po' di servizi magari in tutti i gattili che ci sono nella zona e che curano le colonie feline. Comunque 8.000 euro gli è costato a questo signore, non è che gli è costato proprio 2 lire, 8.000 euro. Ecco, credo che anche i veterinari forse dovrebbero metterci un attimino un freno forse alle spese. Perché sono un po' tante, 6.000 euro a gattino per togliere dei pallini. Sicuramente sì. Io ho rinunciato a una vacanza quando la mia gatta è caduta dal balcone. Ero una vacanza anelata da 12 anni, non ero molto distante, ma dopo un giorno sono tornata a casa perché la mia gatta era caduta dal balcone. E cosa si era fatta? Cosa si era fatta? Si era schiantata? Niente, non era successo assolutamente niente. Si era rintanata vicino a casa, però ho rinunciato a una vacanza e non sono più ripartita. Allora non si era fatta? Male, quindi inutilmente ha rinunciato alla vacanza. Sì, assolutamente sì, ma ancora oggi quando la guardo, e siccome io tra l'altro collaboro con un rifugio per gatti, quindi so quanta gente perde i gatti e quindi aiuta a trovarli, so quanto sono stata fortunata ancora oggi ad avere questa gatta, cielo, di averla ritrovata. Bene, sono contento. Beh, vede, Dio ogni tanto interviene con la sua provvidenza anche per i gatti. Antonella. Pronto? Sì, il suo punto di vista. Buongiorno, guardi, io spero che lei stia un po' ironizzando sotto. No, no, sono serissimo. Allora, guardi, posto che sono assolutamente d'accordo col giudice, in totale, proprio, uno può spendere per il proprio animale anche milioni, ma si ripaga. No, ci devono essere delle valutazioni oggettive. Io poi le volevo sollevare soltanto questa questione. Le premetto che io amo gli animali. Amo gli animali è una premessa un po' banale, però voglio dire, io ho avuti nel passato, però ho studiato un po' il fenomeno e ultimamente ci sono delle lobby molto potenti che dipendono da tutta l'industria del pet. C'è un complotto internazionale? Guardi, io non so se è un complotto, però mi creda, credo veramente che ci siano delle lobby anche a livello politico che spingono per fare in modo che il business legato agli animali, che è sempre più grande, perché basta entrare in un supermercato e vedere come sono aumentati i bancali e sapere, per esempio, il veterinario qui sotto di me, da me ha un cartello sul quale c'è scritto noi siamo totalmente d'accordo all'esenzione totale per le spese legate al veterinario, cioè quindi praticamente verrebbero escluse dall'IVA, se ho capito bene. Sì, cosa che se uno ha un figlio handicappato non ha queste facilitazioni. Comunque assolutamente, va bene. E guardi, parla con una persona che l'ha handicappata, anche pur so la sua situazione, noi l'abbiamo in famiglia perché io ho una sorella che ha una SMA. Mi creda, vorrei sottolineare anche un altro fatto. Viene sottovalutato non soltanto la ricaduta sulla società legata alle urina, agli escrementi per strada, che io ormai me ne sono fatta una ragione, ma l'abbaio continuo, incessante, che c'è in certi quartieri. Io le parlo di Genova, una città che ha fatto pochissimi figli, ma moltissimi. Come anche il suo punto di vista è chiaro, lei dice esagerato, ognuno può coltivi pure le sue manie quanto vuole, ma non pensiamo che tutti possiamo pensare che uno possa spendere 12.000 euro per tre gattini impallinati. Io che vengo dalla campagna, che ho un rapporto con gli animali molto più disincantato, molto più meno affettato, posso anche darle ragione. Mario. Pronto? Sì. Sono Mario. Sì, io non sono d'accordo con la signora prima, io non ho un gatto, ma ho un gatto dei vicini che viene da me, mi super assolutamente simpatico. Scusi Mario, non interrompo, ma è chiaro che nessuno di noi dice che è giusto sparare gatti, ma è una cosa infame, è un'infamata. No, a parte chiaro. Quello, io dico anche dal punto di vista del giudice, Se la conseguenza dell'impallinazione sono stati 12.000 euro, non vedo perché deve pagarne 8. Cioè, ognuno deve essere responsabile di quello che fa. Se io impallino il gatto e la signora ne spende tanto, con documentazione, logico, perché non... Sì, però è una questione, sai, una questione... Dice, a questo gatto non è attribuibile un valore di mercato che corrisponda a questa spesa. Ma logico, ma non è così, perché se adesso sono morto, comunque per salvare un gatto o comunque per salvare qualsiasi animale o qualsiasi diciamo anche uno scoiattolino se lo tiene a casa, perché poi non c'è limite alla spesa, se per qualcuno non è di limite alla spesa, è soggettivo. Io ho speso tot, tu mi devi rimborsare quello che ho speso, perché la causa delle spese sei tu. Cioè, non capisco il concetto di dire no, il gatto non vale, non ha valore, per cui infatti è stata aperta una polemica. Questo verdetto significa che il valore affettivo non è compensabile, quanto se questo gatto avesse avuto un certificato che costava 5.000 euro perché era un gatto rarissimo, forse era giustificabile. Questo era il senso per gli animali. Ma, cioè, scusi, questo è una cosa che per me sì, è ma sto, io non sto esprimendo sì, non sto, vabbè, sto, sto dandole degli elementi. Se il gatto è il gatto, non mi interessa se ha un pelo liscio riconosce o se ha un pedofilo. Abbiamo capito, cioè, abbiamo capito, però la giurisprudenza si basa su dati oggettivi e non è quantificato. Io sono avvocato, cioè io sono... Ma lui, lui ha riconosciuto in termini di legge il danno dato da, diciamo, dal vulnus morale, 2000 euro a testa, per lui era questo il dato. No, va bene, quello del morale va bene, è a discrezione del giudice, ma quello del... se c'è una lista, io ho speso tot, neanche se ho speso 10 euro. Guarda, lei può proporsi come difensore di queste due signore, ricorre in appello, le aiuti e gli faccio ottenere, può fare questo. Luca. Buongiorno, sì. Buongiorno a voi. Sì. Oscar, gatto non particolarmente intelligente, infatti lo ha dimostrato quando si è fatto addentare dal cane del vicino con frattura scomposta del suo gatto, sì. Sì, purtroppo. Ne ho due, uno è particolarmente scemo, l'altro è più intelligente. Quanto le è costato? 1500 euro, quindi un bel pezzo di vacanza anche a noi. Purtroppo io avevo chiesto l'eutanasia, che non c'è stata proposta, anzi c'è stata rifiutata. Allora, io l'avevo chiesta io, mia moglie e le figlie purtroppo si sono... Ma lei l'ha rimborsato il padrone del cane? No, il padrone del cane si è proposto di rimborsarci, ma ovviamente se è un figlio stupido te lo tieni, quindi io ho un gatto. Vabbè, lei odia il suo gatto, lo tiene a fare, se gli ha distrutto almeno la spesa del veterinario per farla. Ringrazio Valerio Rocchetti, Fabrizio Intonti, splendido come sempre, a domani.